prendre vos pieds. Golo wake, golo wake, ese golo wake le no. Golo wake, golo wake, ese golo wake le no. Et pourtant je ne vaux mieux. Et pourtant Bon, viva balle. De caram, y'a eu moula, non, perso. Divi penje boula. Mouva de nepsi. Golo wake, golo wake, esen golo wake.